Vi ho già suggerito tante volte che se avete voglia di pregare dovete cercare nella parola di Dio o comunque nella liturgia che è composta in grande parte dalla parola di Dio. Per esempio, quelle parti che noi quasi non consideriamo, il canto all'ingresso, se si fa un canto normalmente lo si omette. L'alleluia. Idem, il canto dopo il Vangelo, il canto alla comunione. Io amo perlustrare tutta la messa e mentre mi preparavo a questa celebrazione mi sono imbattuto in queste parole. Le tue mani, Signore, mi hanno plasmato e io mi sono bloccato perché mi è sembrata così pregnante questa parola. Io sono stato plasmato dalle mani di Dio. Poi ognuno di noi elabora come vuole e come sa questo. Vado avanti e trovo al canto dopo il Vangelo: Signore, tu sei il nostro Padre e noi siamo fatti da te. Noi siamo povera argilla plasmata dalle tue mani. Quindi mi dico, questa è proprio una realtà importantissima se la Chiesa me la fa ripetere due volte così per dirmi: ricordati, ricordati, cristiano, che non ti sei fatto da te, che non sei il frutto semplicemente della biologia di tuo padre, di tua madre, dei tuoi antenati. Tu vieni da me. Tu sei il nostro Padre. Che bello poter rivolgerci a Dio e chiamarlo Padre. C'è una preghiera molto bella della nostra liturgia che dice: Dio da cui prende nome ogni paternità in cielo e sulla terra, e poi va avanti, no? Dio da cui prende nome ogni paternità, e aggiungeremmo e ogni maternità in cielo e sulla terra. Amici, abbiamo bisogno, quando preghiamo, di usare tutti i tipi di preghiera che la tradizione della Chiesa ci offre, ma di utilizzare molto anche la preghiera del cuore, la preghiera della mente, la preghiera silenziosa, questa. E troveremo un pascolo abbondantissimo nella liturgia. Io vi voglio rileggere il Salmo perché lo ascoltavo proclamare, è fantastico. È il Salmo 62 che è introdotto da un ritornello: Io cerco il tuo volto, Signore. Cioè, come dire, Signore, io voglio vederti in faccia. Io cerco il tuo volto, Signore. E è stato letto bene il Salmo, ma ve lo rileggo proprio per darvi la possibilità di gustarlo ancora. O Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia. Desidera te la mia carne in questa terra arida, assetata senza acqua. Io leggo questo e dico: Oh Signore, ti prego, per amore dei miei fratelli, fatti conoscere. Fatti conoscere Gesù, perché tu sei una consolazione unica per chi ti incontra. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Per questo credente anche la costruzione magnifica, architettonica della chiesa, del suo santuario, gli parlava. E in effetti è così, eh? Se guardate il Duomo, certamente esprime la volontà dei potenti di turno, che ci hanno messo una barca di soldi perché restasse anche come monumento alla loro potenza, alla potenza della città che guidavano, che amministravano. Ma com'è bello! Se ci salite su, poi vedete delle guglie traforate, è marmo, sembra fatto col seghetto del traforo. Perché Dio è grande, ma Dio è anche bello. Ed è la bellezza che tocca il nostro cuore. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Ma qui non si finirebbe mai di parlare. Il canto sacro, alcuni canti, anche gregoriani, io ve ne ho fatto ascoltare uno ultimamente, è meraviglioso. Così ti benedirò, Signore, per tutta la vita. Come io benedico Dio? Sì, dico bene, bene, dico, lodo. Nel tuo nome alzerò le mie mani, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. E quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, o perché non dormi? E c'è gente che dice il rosario, eh? O perché sei un religioso, una religiosa che si alzano magari alle 3:30 a pregare. Esulto di gioia, a te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Vi auguro di saper vibrare nel vostro cuore con queste preghiere, e sono preghiere bibliche. Quando noi preghiamo, tante volte non sappiamo cosa dire e finiamo sempre per chiedere, per chiedere, per chiedere. Va bene, chiediamo anche stavolta che il Signore plasmi i nostri figli e i nostri nipoti, anzi, che il Signore plasmi gli educatori dei nostri figli e dei nostri nipoti, a cominciare dai genitori, per salire fino ai loro insegnanti, ai loro allenatori, ai loro preti. O Signore, plasma coloro che in nome tuo plasmeranno i nostri figli.